Siamo con Ivan Bellavista che ha scritto, diretto e interpretato insieme a Sandra Conti un vero capolavoro, spettacolo in scena ad Exit al Teatro Vascello il 25 maggio. Ivan, ben trovato. Salve, grazie, salve, eccolo. Lo descrivi? Allora, è un vero capolavoro, è uno spettacolo che in realtà non si può raccontare, perché se raccontassi la trama si rovinerebbe tutto. Diciamo che io e Sandra, mentre lo stavamo scrivendo, questa volta, a differenza di Moliere Immaginario, che per l'occasione sarà in scena il 3 giugno al Teatro Vascello, facciamo tutte e due. È certo. Praticamente ci siamo imposti una trama, un filo conduttore. Dal momento in cui ci interessa più che raccontare, ma raccontarci, diciamo la storia è arrivata alla fine. Infatti è proprio drammaturgicamente arriva proprio alla fine. L'intreccio è come nei migliori gialli, alla fine l'assassino si capisce alla fine, solo che questa volta non si parla proprio di assassinio, ma si parla di vita, anzi è proprio il contrario, e non voglio aggiungere altro. Ok. Ecco. Senti Ivan, com'è nato tutto? Come Moliere Immaginario ci siamo messi io e Sandra e abbiamo tirato fuori praticamente quello che da una vita sognavamo di fare in scena. Ma questo per quanto riguarda, che so, il mettere in scena dei personaggi, dei caratteri, per un vero capolavoro, per esempio, nel primo incontro, che formalmente avviene sempre con un caffè, tra me e Sandra, ci eravamo messi in testa, per esempio, di ballare. E quindi abbiamo detto, vabbè, ok, perché mettiamoci pure il ballo e facciamoci coreografare. Infatti ci siamo fatti coreografare da Paola Maffioretti, che è una grande coreografa, nonché grandissima amica nostra. È un po' come quando entri in cucina, no? E dici, c'ho una fame da lupo, però mi sono dimenticato di fare la spesa. Però vediamo che cosa c'è, no? Allora trovi l'olio, ci sta, il sale c'è, la cipolla c'è. Guarda, è rimasta anche un pochettino di pancetta. Ma sai che c'è? A questo punto ci scappa fuori una bella carbonara, se metti caso arriva pure l'uovo. Noi facciamo la stessa identica cosa. Noi mettiamo in scena i nostri ingredienti, in fase non solo di scrittura, ma precedentemente di improvvisazione. Mettiamo quello che abbiamo e poi praticamente Sandra, che è più diciamo sarta del testo, perché è quella che diciamo dà la definitiva sostanza al copione, imbastiamo, mettiamo e quindi facciamo coincidere i vari pezzi come una specie di costume di Arlecchino, dove ci sono tutti i colori che devono coincidere, e noi facciamo, questo è il nostro lavoro. Cioè, il lavoro di preparazione dello spettacolo è trovare l'amalgama e il corpo che non possiamo raccontare, ma soltanto fare. Ok. È una produzione La Fabbrica dell'Attore, ci racconti un po' questa esperienza? Come una collaborazione che sta nascendo, Ok. e speriamo di portare avanti con onore, perché per noi è una grande possibilità, una grande fortuna, se vogliamo, nonostante la nostra provenienza assolutamente indipendente, e speriamo lo sia per sempre. Quindi essere sostenuti dal Teatro Vascello per noi è una bella cosa, è un onore per noi. Senti Ivan, c'è una pagina Facebook, un sito internet per saperne di più? Allora, c'è la mia pagina Facebook, che è Ivan Bellavista, e poi c'è appunto il riferimento all'evento, che è un vero capolavoro, Moliere Immaginario al Teatro Vascello. Benissimo. Allora, un vero capolavoro 25 maggio all'interno di Exit e Molière il 3 giugno, vero? Moliere Immaginario il 3 giugno, precisamente, tutti e due alle ore 21, Benissimo. 25 maggio venerdì e il 3 giugno è domenica. Ivan, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Previ, grazie, grazie infinite, Federico, grazie.